667. Budino di cioccolata. Latte decilitri 8, zucchero grammi 80, cioccolata grammi 60, savoiardi grammi 60, uova numero 3, odore di vaniglia. Grattate la cioccolata, mettetela nel latte e quando questo comincia a bollire, gettateci lo zucchero e i savoiardi sminuzzandoli con le dita. Mescolate di quando in quando onde il composto non si attacchi al fondo. E dopo mezz'ora di bollitura passatelo per istaccio. Quando è ghiaccio aggiungete le uova frullate e la vaniglia. Versatelo in uno stampo liscio e il cui fondo avrete prima ricoperto di un velo di zucchero liquefatto e cuocetelo a bagnomaria. Grammi 50 di zucchero bastano per ricoprire il fondo dello stampo. Si serve freddo.